100, 1100 talenti. Così poi mi senti, sì, un'emozione straordinaria, un'equazione si semplifica nell'anima. Sta situazione poco chiara, manca un po' d'aria, manca la strada. E mo che si fa, e mo che ci sta, sta voce va più veloce, giù dalla croce. Non so, giuro, con un rollerco speciale, scivolo subito e non ti faccio male. Dici che vuoi bene a Shadow B, poi vuoi stendermi. Dici che vuoi male a Shadow B, vieni a prendermi. Più di così che lost in your trip. Silenzio di tomba, ti insegue nell'ombra, ti prende, ti sfonda la testa. Finisce una festa, finisci in un mix, poi riprendi da e ti consuma. La ruota ha cominciato a girare.